La cosa che volevamo fare, vabbè, adesso lasciamo la parola un attimo a Domenico. E poi ci piaceva l'idea di tenere tre punti: il film, il vostro vissuto. Sto parlando con gli agricoltori che abbiamo invitato qui a parlare. Il vostro vissuto, la vostra storia, il vostro lavoro, una narrazione di quello che è la vostra azienda, e poi di che cosa avete bisogno, quali sono le vostre difficoltà e che cosa chiedete a un'amministrazione comunale, cosa può fare un'amministrazione comunale. Secondo me questo potrebbe essere un primo passo che insieme a tanti piccoli altri passi ne potrà fare uno grande. Grazie Paolo, benvenuti a tutti. Io ho poche parole da aggiungere perché credo che il filmato abbia introdotto benissimo questa nostra serata. Un paio di cose molto veloci, perché stasera mi interessa davvero moltissimo ascoltare chi dall'agricoltura ci vive tutti i giorni. Compito di un'amministrazione in questi casi è davvero quello soprattutto di imparare, non di insegnare. Un paio di considerazioni però le voglio fare, più che altro per dare dei dati. Un dato prima di tutto, diciamo, culturale è che nel nostro paese l'agricoltura non è più da considerare il settore primario. L'agricoltura viene dopo tutto quello che viene messo appunto al centro del profitto. L'agricoltura è considerata la ruota di scorta. Non abbiamo un piano nazionale per la riforma agraria, l'ultima che abbiamo avuto è stata quella del dopoguerra. Non c'è un pensiero lungo sull'agricoltura ormai da almeno 50 anni nel nostro paese, e viene lasciato tutto allo spontaneismo e alle singole iniziative di piccoli agricoltori, ma che hanno un pensiero molto grande come quello che abbiamo appena visto. In Lombardia, un altro dato che vorrei dare per discutere questa sera, siamo scesi pochi mesi fa sotto 1 milione di ettari destinati all'agricoltura. È una soglia importante, è una soglia direi anche simbolica. La Lombardia è la regione d'Italia che produce maggiore valore agricolo, non è una regione industriale, la Lombardia è una regione agricola, eppure stiamo perdendo suoli agricoli fertilissimi ad una velocità impressionante. 13 ettari al giorno noi perdiamo in Lombardia di suolo agricolo, suolo che impiega secoli, millenni per avere le proprietà che oggi noi dobbiamo utilizzare per appunto darci da mangiare, che con un quarto d'ora di operazione con una betoniera si uccide per sempre. I suoli, il nostro territorio, la nostra vallata sono così da millenni, e davvero credo che è impressionante pensare con quale facilità, con quale leggerezza si programmano capannoni sul suolo agricolo che così da un sacco di anni, che io credo che un'amministrazione, ma una comunità, non è questione di amministrazione, una comunità dovrebbe difendere metro per metro. La terra qui da noi, Abbiategrasso, nell'Abbiatense, nel Parco del Ticino, ci serve per moltissimi motivi. Il primo è quello di cui ne parleremo dopo con tutti gli altri, quindi quello per darci da mangiare. Ci serve per respirare, la terra libera ci serve non soltanto per coltivare cibo per le persone, ma ci serve per inglobare CO2, per abbattere l'inquinamento. Quando noi costruiamo un parcheggio per un grande centro commerciale, abbiamo aumentato le emissioni di CO2, abbiamo ridotto la capacità del nostro territorio di assorbire CO2. La terra ci serve per ridurre il dissesto idrogeologico. La terra sigillata, cementificata, aumenta il dissesto idrogeologico anche ad Abbiategrasso, anche nell'Abbiatense, anche nella nostra regione dove pensiamo di essere all'avanguardia. Uno dei problemi principali che le amministrazioni hanno, Abbiategrasso non è ultima, è quella della tenuta della rete fognaria, del sistema idrico. Noi che abbiamo ereditato un sistema idrico eccezionale, perché è stato costruito in che anni? Nel 300, nel 400, giusto Massimiliano? Lo stiamo uccidendo con autostrade, infrastrutture, svincoli, cavalcavia, rotonde, per andare più in fretta al centro commerciale. Questo credo che sia importante e ci deve far riflettere. E l'agricoltura, se vogliamo avviare, da adesso, siamo già in ritardo, ma dobbiamo farlo prima o poi, ci serve per programmare un altro modello di sviluppo. Un altro modello che dia ai cittadini del nostro comune, del nostro territorio, della nostra regione, del nostro paese, un'altra prospettiva. È finito il tempo dei capannoni con le aziende manifatturiere, è finito. Il Batilor non tornerà più, la Siltal non tornerà più. Noi dobbiamo trovare un altro modo per poterci dare da lavorare, dobbiamo trovare un altro modo per poter dare una prospettiva per il futuro. E la cosa più importante che noi abbiamo oggi è la terra, è l'unica cosa certa che abbiamo per ora. E una piccolissima nota polemica, ma non più di tanto, fa specie che si parli oggi di agricoltura e che negli ultimi anni non se ne sia mai fatto cenno. Noi siamo il comune che ha la più grande estensione territoriale dopo il comune di Milano, nella provincia di Milano, e di agricoltura se ne parla poco in qualche convegno, e non ci sono state, almeno io non le ho viste, azioni importanti a favore di un altro approccio a questo tema. Un pensiero lungo, di lunghissimo periodo, che metta gli agricoltori nelle condizioni di avere un interlocutore serio. E purtroppo, o per fortuna, non lo so da che punto di vista prenderla questa, ma noi, il sindaco uscente, è presidente dell'ente regionale che si occupa di agricoltura. Non so se tutti voi lo sapete, ma il sindaco di Abbiategrasso, Roberto Alberti, è presidente dell'ente regionale che si occupa di agricoltura. Credo che questo sia una domanda e anche di per sé una risposta. Chiudo con una risottolineatura e un piccolo auspicio che abbiamo già incominciato a portare avanti domenica scorsa. La sottolineatura rispetto a quello che diceva prima Paolo. Vorrei ascoltare dagli agricoltori, da chi opera nel mondo del settore primario, che ha già avviato delle iniziative importanti di riconversione, di nuovo pensiero, quali sono le cose che loro si aspettano dall'amministrazione comunale, dalle amministrazioni comunali, perché noi stiamo affrontando questa campagna elettorale con una consapevolezza che comunque Abbiategrasso non è fine a se stessa e non è Abbiategrasso è parte di una provincia, Abbiategrasso è parte di una regione, Abbiategrasso è parte di un paese, Abbiategrasso è parte di un pianeta, e quindi dobbiamo essere sempre consapevoli del fatto che siamo una parte di una realtà più complessa e più ampia, però a partire dalle politiche locali si possono avviare percorsi alternativi, e questo noi vogliamo farlo ascoltando, imparando e sentendo quali sono i pensieri che voi volete porre all'attenzione dell'amministrazione. E poi cosa voi appunto chiedete e pensate che il comune possa fare e cosa voi volete fare per noi? Cosa voi volete mettere sul tavolo di una comunità che deve trovare nuove strade? Senza retorica, io credo che se vogliamo davvero trovare un nuovo modo di gestire il nostro territorio, dobbiamo dire, senza essere considerati degli estremisti. Ecco, io penso che qua dentro ci sia davvero, molti pensano che quando si parla di agricoltura, di ambiente, ci si confronti con degli estremisti, con dei radicali. Io penso che qua ci sia davvero una platea di estremamente moderati, perché noi dobbiamo moderare il peso dell'uomo sulla terra, e quindi gli estremisti credo che siano, in realtà, questo lo dico spesso ultimamente, siano gli altri. Gli estremisti sono quelli che vogliono continuare a fare capannoni. Dove dobbiamo andare? Sono loro i veri estremisti, e quindi noi siamo la parte moderata che però vuole fare le cose per bene, e una parte moderata che dice delle parole molto serie. Però le parole che dice questa parte moderata è: basta cemento e teniamoci la terra, non per noi, anche per noi, ma soprattutto per chi fra qualche anno dovrà darsi da mangiare su questa terra grassa. Grazie, e do la parola a voi.